24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta. In primo piano il voto all'ONU sulla Palestina. Mario Monti a settembre all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite aveva sottolineato che la politica estera italiana dovesse essere intrinsecamente legata all'Unione Europea come attore di primo piano a livello internazionale. La decisione, comunicata ieri pomeriggio, conferma quell'intenzione. Contro Stati Uniti e Israele, l'Italia ha infatti deciso di votare sì al riconoscimento della Palestina come Stato osservatore non membro dell'ONU. Una decisione, si legge nel comunicato di da Palazzo Chigi, volta a rilanciare il processo di pace con l'obiettivo di due stati, quello israeliano e quello palestinese, che possano vivere fianco a fianco in pace e sicurezza. Una scelta, tenuto a sottolineare il premier Monti in una telefonata al suo omologo Netanyahu, che non allenta in alcun modo l'amicizia con Israele. Siamo molto delusi, ha ribattuto a stretto giro l'ambasciatore israeliano a Roma. Poco prima del sì italiano c'è stato quello belga e quello svedese che si vanno a sommare già favorevoli Francia e Spagna, fra gli astenuti Germania e Regno Unito. L'ambasciatore Cesare Maria Ragaglini, rappresentante permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite. L'Italia ha certamente lavorato per poter giungere a una posizione comune europea e questa non ci sarà. Questo però non significa che l'Unione sia spaccata sui grandi principi che dovrebbero regolare la ripresa dei colloqui, dei negoziati diretti fra israeliani e palestinesi e poi lo status finale della Palestina nell'ambito di questo accordo. Voltiamo pagina. L'Europarlamento vara la vigilanza unica sulle banche. La BCE dovrà avere la supervisione su tutte le 6.000 banche dell'Eurozona. Il sistema di vigilanza unica sarà anche aperto a tutti i paesi dell'Unione Europea che vorranno aderirvi e che in questo caso avranno piena parità di diritti, compresi quelli di voto nel Consiglio di supervisione. Particolarmente interessati a questo i paesi dell'Est Europa, i cui sistemi bancari sono colonizzati per lo più da istituti tedeschi, austriaci e italiani. Le autorità nazionali avranno funzione di assistenza della BCE, che potrà autonomamente stabilire i termini del rapporto e avrà comunque l'ultima parola e potrà controllare direttamente qualunque istituto bancario. Sono questi i punti principali della proposta di regolamento sulla supervisione europea unica, come emendata e approvata a larghissima maggioranza dalla Commissione economico-finanziaria del Parlamento europeo, che ha ribaltato l'impostazione del Consiglio, di ispirazione tedesca, di una supervisione a due livelli, per cui la BCE avrebbe dovuto avere la vigilanza diretta soltanto sulle banche sistemiche e o sotto assistenza. Sui mercati finanziari del vecchio continente è stata una giornata positiva. Francoforte ha chiuso più 0,78%, Londra ha realizzato un guadagno dell'1,15%, Parigi è cresciuta dell'1,53%. Meglio di tutti Milano. Chiusura in gran rialzo per Milano, che ha vantato la performance migliore d'Europa nel giorno in cui il Tesoro ha collocato BTP a 5 e 10 anni per quasi 6 miliardi di euro con rendimenti in calo. Il FTSE MIB è salito del 2,81%. La giornata è stata comunque positiva per tutte le piazze europee, in festa per le notizie provenienti dall'America, sia sulla fiducia che verrà presto raggiunto un accordo sul cosiddetto fiscal cliff, sia sul prodotto interno lordo americano del terzo trimestre che ha allungato il passo del 2,7%. A Milano sono state in evidenza le azioni delle banche, soprattutto quelle di taglia media. UBI ha messo a segno un progresso del 7,5%, BPR del 9,9%, BPM dell'8,2%. Banca MPS ha fatto peggio degli altri istituti, salendo solamente del 2,3%. Banca MPS ha continuato a risentire della notizia che ha richiesto Monti Bond per 3,9 miliardi, ovvero 500 milioni in più rispetto a quanto indicato in precedenza. Sono inoltre state gettonate le Ansaldo STS, più 6,2%, che così hanno spinto all'insù anche le quotazioni di Finmeccanica, più 6,1%. Telecom Italia ha registrato un progresso quasi pari al 4%, mentre si avvicina la data del consiglio di amministrazione fissata il prossimo 6 dicembre. Fuori dal paniere principale sono volate del 23% le Seat Pagine Gialle. Da Radio Core, Eleonora Micheli per Radio 24. I governi sono disposti a concedere solo 6 miliardi di euro degli 8,9 miliardi che la Commissione europea chiede come manovra aggiuntiva sul bilancio 2012 per riuscire a pagare le fatture già presentate all'incasso. È questa l'ultima proposta dei rappresentanti del Consiglio sul tavolo del negoziato con il Parlamento europeo, cominciato mercoledì e sospeso ieri pomeriggio. Lo rivelano fonti europee, specificando che anche per i pagamenti del budget 2013 è proposto un taglio da 137,8 a 132,8 miliardi. Così come concepito, il compromesso riporta al 2013 i 2,9 miliardi di pagamenti e contemporaneamente taglia di 5 miliardi le disponibilità richieste dalla Commissione per il 2013, ma i governi, così come già stato fatto nel 2011, sottoscriverebbero una dichiarazione di impegno ad appianare i conti in sospeso alla fine del prossimo anno. Sulla manovra correttiva per il 2012 e sul budget 2013, all'inizio di novembre, è già fallita una prima trattativa tra Parlamento e Consiglio. In ballo ci sono i fondi per i pagamenti delle borse Erasmus, ma anche i finanziamenti per la coesione, la ricerca e i fondi sociali. La Commissione europea ha annunciato lo sblocco di 1 miliardo e 265 milioni di euro per finanziare progetti essenziali nel campo delle infrastrutture per i trasporti. I fondi rientrano nel quadro dei programmi annuali e pluriennali della rete transeuropea di trasporto per il 2012 e possono essere utilizzati per finanziare progetti di infrastrutture in tutti i settori, aereo, ferrovia, strada, eccetera, e in tutti gli stati membri. Google Italia deve 96 milioni di euro di IVA non pagati al fisco italiano. Sono in corso verifiche della Guardia di Finanza su altri 240 milioni di reddito non dichiarati, ma non è un caso isolato e riguarda altri paesi europei. Marco Bellinazzo. Non solo Google nel mirino, ma tanti altri big della new economy, del mondo di internet. Era un po' nell'aria perché in tutta Europa c'è ormai questo assedio ai ricchi profitti che fanno queste società, non versando di fatto poi questi profitti in tasse nei stati in cui li producono, ma in paradisi fiscali o in paesi come nel caso di Google in Irlanda, dove la tassazione è molto bassa. Chiaramente c'è il tentativo da parte delle amministrazioni finanziarie dei singoli paesi di recuperare queste risorse, perché il concetto poi ridotto all'osso è molto semplice: nei paesi come l'Italia o in Francia, secondo appunto le amministrazioni finanziarie nazionali, non ci sarebbero semplicemente delle società che danno servizi a Google o a questi altri big, ma delle vere e proprie stabili organizzazioni, e quindi le tasse vanno pagate nel paese in cui il reddito viene prodotto. Grazie a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Entro il 2013 potrebbe partire il sistema europeo di sorveglianza elettronica delle frontiere contro l'immigrazione illegale. La Commissione Libertà Civili e Giustizia del Parlamento europeo ha infatti approvato il regolamento per il sistema Eurosur, destinato a migliorare lo scambio di informazioni raccolte da satelliti o navi, ma anche dai servizi di intelligence nazionali, tra gli Stati membri e il Frontex. Il sistema è destinato a monitorare, identificare e prevenire i flussi migratori illegali, il 90% dei quali nel 2011 sono passati per 4 paesi: Grecia, Italia, Spagna e Malta. Lo scopo è però anche quello di salvare vite di chi fugge dalle guerre. I parlamentari hanno emendato il testo per imporre la piena osservanza del principio del non respingimento e degli standard europei di rispetto dei diritti fondamentali, compresa la protezione dei dati personali. Se non ci saranno ritardi nell'iter legislativo, Eurosur diventerà operativo dal 1 ottobre 2013. L'ex ministro degli esteri maltese, Tonio Borg, è il nuovo commissario europeo per la salute e i consumatori. Borg, conservatore, succede al connazionale John Dalli, dimessosi il 16 ottobre scorso in seguito ad un'inchiesta condotta dal servizio antifrodi dell'UE, l'Olaf, sulle pressioni esercitate da un suo conoscente nei confronti di un'azienda svedese in una storia di lobby pro tabacco da masticare. Borg, 55 anni, dichiaratamente antiabortista, è riuscito a superare lo scrutinio del Parlamento europeo, garantendo che egli rispetterà le norme europee al di là dei suoi convincimenti personali, che in materia di aborto spetta agli Stati membri decidere. Borg ha assicurato che presenterà una nuova e ambiziosa proposta di legislazione sul tabacco entro il prossimo gennaio. L'emiciclo, nella sede di Bruxelles del Parlamento europeo, resterà chiuso per tutto il 2013. Lo ha detto il vicepresidente vicario Gianni Pittella nell'ambito dell'audizione con il presidente Herman Van Rompuy. Alla fine di agosto scorso sono stati scoperti danni in 3 travi che sostengono il tetto dell'aula plenaria ed è stata decisa la chiusura per i necessari lavori di consolidamento di un'ampia zona di un'intera ala dell'edificio che si sospetta soggetta a danni strutturali profondi. Tutte le mini sessioni plenarie previste a Bruxelles sono cancellate fino all'estate e una decisione verrà presa per la mini sessione prevista a novembre 2013. Gli eurodeputati avranno la possibilità di riunirsi in altre sale del Parlamento europeo e le votazioni in plenaria saranno raggruppate in sessioni mensili a Strasburgo. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi che ha curato la regia, grazie a voi per l'ascolto e un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.